Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24. Come sapete, sta per cominciare il vertice di Copenaghen. Penso che lo sappiate tutti, nel senso che se ne sta parlando molto, ne stanno parlando i giornali quotidiani, ne stanno naturalmente parlando anche i settimanali, poiché di settimanali ci occupiamo in questa mezz'ora in cui stiamo insieme. Ho provato a vedere come se ne parla e chi ne parla in modo magari più utile per farsi un'idea all'ultimo momento. Tra l'altro, anche oggi stesso su Radio 24 alle 16.30 e poi alle 19.30 si parlerà di Copenaghen, e naturalmente dal lunedì, giorno in cui si aprirà questo vertice internazionale molto importante per le decisioni che potranno essere o non essere prese, da lunedì, dicevo, Radio 24 avrà più di un inserto, più di una occasione di approfondimento su Copenaghen. Il tutto unificato da questo titolo, Suoni di Copenaghen. Ma dai suoni torniamo invece alla parola scritta. Una bella presentazione di Copenaghen compare su Vita, il magazine dedicato al no profit. Ci sono diverse ovviamente indicazioni, anche indicazioni di siti internet su cui ci si può informare e tenere informati, se volete così integrare le informazioni che potete trarre dalla radio e anche naturalmente dal Sole 24 Ore. Spiega ad esempio Vita, questa è la 15ª tra le conferenze delle parti, COP15. L'obiettivo di questa conferenza di Copenaghen, che si apre lunedì, sarà aperta una decina di giorni, è un nuovo protocollo per fronteggiare il cambiamento climatico che superi il protocollo di Kyoto, il quale scade a fine del 2012. Il protocollo di Kyoto è un'intesa per la riduzione delle emissioni che era stata appunto siglata a Kyoto. Il sito ufficiale danese di COP15 dichiara che gli obiettivi della conferenza sul clima, leggo sempre da Vita, sono stabilizzare l'ammontare di gas serra emessi nell'atmosfera, stabilizzare a livelli che impediscano pericolosi cambiamenti climatici per causa umana. Questa stabilizzazione deve avvenire in una maniera che permetta ai nostri ecosistemi di adattarsi naturalmente. Allora, che cosa vuol dire questa dichiarazione? Più o meno l'abbiamo quasi tutti capito, direi. Il senso è che l'uomo, il progresso umano sta intervenendo, sta interagendo in modo forse troppo massiccio, stando almeno a quello che dicono gli scienziati, con l'ecosistema terrestre, quindi peggiora la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, specialmente le emissioni di gas serra, appunto di gas che aumentano l'effetto serra. È un effetto in sé positivo, ma che non deve superare una certa soglia, l'effetto serra del pianeta. Ecco, queste emissioni vanno tenute sotto controllo, e questo appunto è l'obiettivo di Copenaghen, avere un ulteriore accordo in questa materia. La cosa sembra un po' astratta, e infatti, anche perché si colora un po' di politica, infatti sull'Economist questa settimana si presentano diverse pagine su Copenaghen. C'è uno speciale sull'economia dell'anidride carbonica, ma ovviamente ricca di posizioni, dati e quant'altro, ma c'è soprattutto un articolo che mi ha incuriosito e che vi voglio proporre. Dice, il titolo è molto significativo, perché all'interno di queste 12-14 pagine che presenta l'Economist, a un certo punto si trova questo articolo che si chiede a chi importa, ovvero ma quanto veramente ci interessa che poi ci sia un accordo per ridurre le emissioni di gas serra, per migliorare, per tenere sotto controllo lo sviluppo industriale in un modo che sia compatibile con l'ambiente. Beh, non sorprendentemente l'articolo, con anche l'ausilio di un grafico, mostra che le preoccupazioni per l'ambiente sono inversamente proporzionali a quelle per lo sviluppo economico. O, detta più brutalmente, se ci sono le preoccupazioni per l'economia molto forti, come in questo periodo, ad esempio per l'occupazione o per appunto la possibilità di sviluppo, di guadagno di tutti noi, il mantenere un posto di lavoro, mantenere un tenore di vita, ecco che la preoccupazione per l'ambiente tende drasticamente a diminuire. Prelevano il loro lavoro, i colleghi dell'Economist, da un sondaggio molto recente che è stato appunto diffuso proprio nei primissimi giorni di dicembre. E si trova tra l'altro che rispetto ad agosto è anche un po' peggiorata la disponibilità delle persone. Ad esempio, rispetto alla domanda che è stata posta agli statunitensi, a un campione di cittadini statunitensi: siete disposti a pagare di più la vostra elettricità, la vostra fornitura di elettricità, per poter tenere sotto controllo le emissioni di gas serra, gas considerati nocivi per l'ambiente? Allora lì si dava una disponibilità abbastanza avanzata, però in realtà quando si è chiesto se si era disposti a pagare di più anche $25 al mese, fanno una dozzina di euro mal contati, qualcosa di più, la risposta è subito crollata da un 58% di disponibilità generica a un 40% di disponibilità. Quindi dalla maggioranza 6 su 10 erano disposti a pagare qualcosa di più, a una minoranza solo 4 su 10 sono disposti a pagare di più. Poi ci sono i problemi dello scetticismo alimentato in parte anche dalle confusioni che possono provenire dal mondo scientifico, i cui dati, i cui rilievi non sempre sono facilmente comprensibili o addirittura sembrano anche non univoci sulla materia. Il grafico, infine, che si utilizza per illustrare il tutto, mostra proprio la preoccupazione per l'ambiente in calo deciso tra il 2007 e il 2009. Passa da il 60% di cittadini preoccupati per l'ambiente fin verso il 40%, e invece la preoccupazione per la crescita economica, che sale dal 40% verso il 55-56%, sempre anni dal 2007 al 2009, quindi un'inversione di tendenza che poi è dovuta a null'altro se non all'effetto, a uno degli effetti della crisi. Veniamo a un evento meno epocale, se volete, di Copenaghen, ma che ha comunque la sua importanza. Lunedì prima della scala è un evento, un avvenimento molto importante. Si comincia con la Carmen di Bizet. A questa opera dedica due pagine il mensile, che trovate in edicola da ieri con Il Sole 24 Ore. Tra l'altro, prendo proprio da queste due pagine di Hill, la Carmen andò in scena per la prima volta il 3 marzo del 1875 a Parigi, ma la prima rappresentazione della Carmen fu un fiasco. Lo stesso Bizet, che morì 3 mesi dopo la prima, non ebbe mai modo di assistere all'entusiasmo e alla popolarità che gradualmente questa opera raccolse. Tra l'altro c'è stato anche un recente adattamento dell'opera in un lungometraggio sudafricano che è stato premiato poi nel 2005 al Festival del Cinema di Berlino. Questo uno dei dettagli che trovate, le curiosità che trovate sulla Carmen su Il, in edicola da ieri con Il Sole 24 Ore. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Avevamo cominciato a sfogliare Il, che è il magazine del Sole 24 Ore, trovate in edicola, in vendita appunto con il nostro quotidiano da ieri, ma lo potete naturalmente acquistare anche nei giorni successivi, anche oggi e nei giorni successivi. Su Il c'è una vicenda italiana interessante, la racconta Marco Bellinazzo. Si tratta del centro servizi di Pescara. Che cos'è? Tutti quelli che hanno utilizzato lo sconto fiscale del 36% per i lavori in casa sanno che bisogna spedire a questo centro di Pescara. In realtà il centro di Pescara è un po' un cuore decisivo, un punto nevralgico della pubblica amministrazione e del fisco. Caro fisco, ti scrivo, il titolo dell'articolo di Marco Bellinazzo, viene spiegato così: rimborsi, bonus, detrazioni e incentivi, chi ha detto che lo Stato toglie e basta? Al centro operativo di Pescara vengono passate al setaccio le domande di agevolazione richieste dai contribuenti italiani. Un lavoro sempre più arduo, confidano gli angeli delle pratiche, con tutti questi fantasmi in giro. E qui poi vi rimando naturalmente all'articolo di Bellinazzo, di Marco Bellinazzo, su Il. Ma per spiegarvi che cos'è questo centro di Pescara, che finora non era mai stato visibile per nessuno, quindi le foto e le spiegazioni che trovate su Il sono tra le primissime che si possono vedere di questo centro, vi segnalo qualche dato. Dalla costa abruzzese, scrive Bellinazzo, passano quasi tutte le istanze per le agevolazioni fiscali. dallo scontro del 36% sul costo dei lavori di ristrutturazione, come sanno i 3 milioni di italiani che in questi anni hanno rinnovato casa, fino ai bonus per l'occupazione, dagli incentivi per gli investimenti nelle aree svantaggiate a quelli più recenti per ammodernare gli impianti aziendali. E appunto su questo non luogo, la cui notorietà è inversamente proporzionale al grado di conoscenza effettiva che ne hanno i contribuenti, che il si è affacciato in una ventilata mattina di settembre. E segue poi la storia, tra l'altro dal 2007 a oggi sono passati da Pescara più di 400.000 rimborsi fiscali, dai quali sono scaturiti 7 miliardi di euro di rimborsi, e ancora istanze per crediti di imposta ritenute sui dividendi, 1 milione di comunicazioni per la detrazione del 36%. Questi sono alcuni dei numeri del centro operativo di Pescara che vengono raccontati su Il. E restiamo ancora su Il, vi segnalo ancora un articolo molto interessante, L'ultimo torero, un articolo di Christian Bennat, perché L'ultimo torero, in Spagna ci sono delle vere e proprie scuole per matadores, per toreri. Queste scuole non sono in un momento particolarmente felice, e lo spiegano infatti le pagine di Il. Il sole non sorge più come una volta sul traje de luz, il vestito di oro e di luce del matador resta un sogno solo per un migliaio di ragazzi, gli iscritti in calo costante delle 42 scuole taurine del Regno di Spagna. Questo è l'attacco del pezzo di Il, in cui si raccontano appunto queste scuole per toreri. Tra l'altro c'è anche la vicenda di una giovane italiana che aveva lasciato Firenze per andare appunto in una di queste scuole per toreri, poi però spiega: diventare matador costa una fortuna, il mondo della corrida inoltre è molto chiuso e conservatore. Eva Bianchini, questo è il suo nome, oggi fa la pittrice a Huelva, quindi è rimasta in Spagna ma ha rinunciato al suo sogno di diventare un matador. E visto che parliamo di cose estere, un'altra delle abitudini che differiscono molto da paese a paese viene raccontata da Famiglia Cristiana, quel gesto cortese che divide il mondo. Si tratta della mancia. La mancia nei ristoranti americani, come sanno quelli che sono stati negli Stati Uniti, è obbligatoria. In Cina invece è arrivata solo con le Olimpiadi. Così la tradizione della mancia, spiega Giulia Cerqueti, mette in crisi turisti e viaggiatori che naturalmente non sanno bene come comportarsi da stato a stato. In Europa, riassume in aiuto una scheda, la mancia resta a discrezione del cliente, in media dal 5 al 10%, però il servizio spesso è compreso nel pasto. Negli Stati Uniti invece siamo proprio nella patria della mancia, soprattutto nei ristoranti. Si chiama tip, è calcolata su base rigorosamente matematica. Al ristorante è in media del 15%, può arrivare anche al 20%. Non è inusuale trovarla espressa proprio nel conto che viene portato dal cameriere al tavolo. In Messico al ristorante si utilizzano mance dal 15 al 20%, in Argentina intorno al 10%. In Cina, appunto, come vi riferivo, prima delle Olimpiadi la mancia non era un'abitudine, ora invece è entrata nell'uso, però resta a discrezione del cliente. Anche in India, è un'altra delle segnalazioni di Famiglia Cristiana, la mancia è un'introduzione recente, viene calcolata anche qui intorno al 10%. In Giappone, però, e questo mi sembra importante, lasciare mancia è considerato un'offesa, così riferisce Famiglia Cristiana, quindi è vietato. Meglio non lasciare una mancia, quindi, per non rischiare di offendere. Bisogna poi vedere se in realtà il servizio va a coprire anche questo gesto cortese, appunto, come lo definisce Famiglia Cristiana, oppure non lo copre affatto. E visto che siamo in Estremo Oriente, una piccola cosa trovata su 7, Wang Zifei. Chi è Wang Zifei e perché tutti la cliccano? È la domanda di un breve articolo che è comparso su 7 giovedì scorso. Wang Zifei era la studentessa seduta dietro a Barack Obama nel corso della visita del Presidente degli Stati Uniti in Cina. In termini televisivi significava giusto davanti la telecamera. La sua immagine ha abitato con grazia allo schermo durante l'incontro del Presidente con gli studenti di Shanghai il 16 novembre. In Cina non l'hanno in realtà vista in molti, perché il dibattito è andato solo sulle TV locali, perché il dibattito naturalmente prevedeva anche anche la possibilità di criticare i leader, e per questo motivo non è stato trasmesso in modo diffuso in Cina. Ma chi l'ha seguita sul web o alla CNN ha avviato il tantam, e così 10 giorni dopo il blog di questa studentessa è stato visitato da 1.300.000 internauti che l'hanno ritrovata cliccando nel nome su Google. A questo punto la studentessa Wang Zifei ha chiesto pubblicamente di lasciarla in pace, ha supplicato gli amici di non divulgare più informazioni sulla sua vita, ma finora pare che questa richiesta sia rimasta inascoltata. E chiudiamo con un'altra cosa estera, ma che in realtà ci dice qualcosa anche su di noi, anche sull'Italia. Torniamo sull'Economist, perché l'Economist segnala che in un recente sondaggio gli abitanti del Regno Unito, gli inglesi, sono risultati, diciamo, se non i più razzisti, i meno disponibili nei confronti degli stranieri. Poiché di razzismo si sta parlando molto anche da noi, e ha fatto molto rumore anche l'esito del referendum svizzero sulla possibilità poi negata di costruire minareti sul suolo elvetico, vale la pena di dare un'occhiata a che cosa riferiscono i colleghi dell'Economist. Spiegano con tanto di tabelle che in questo momento la Gran Bretagna sembra particolarmente ostile. Tra le 6 nazioni europee che sono state interessate per un sondaggio che si è svolto poi anche in America e in Canada, gli abitanti del Regno Unito sono risultati i più vicini ad essere ostili all'immigrazione. E tra l'altro vi segnalo, compare anche l'Italia in questa classifica, il dato ad esempio: gli immigrati ci tolgono posti di lavoro alle persone del posto. In Gran Bretagna si prende un sì dal quasi il 45% degli interpellati, in Italia solo il 25% sembra pensarla così. Io ringrazio Calmero Lauricella che mi ha assistito in regia, Manuela Sicuro e Vittoria Mussini mi hanno aiutato a preparare questo programma. Ci sentiamo sabato prossimo.